Quanti ricordi lascerò per la mia strada, ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte è meglio del ricordo stesso. Sto meglio adesso, già. È una bugia che ho detto per sentirmi peggio, non coincide con la verità. Eravamo solo un sogno, ma lo sai che tutti sanno che i sogni spesso rispecchiano la realtà. Tu non ci pensi mai, hai capito chi sono anche se non ti ho mai detto niente. Non so dove andrai, ma in ogni parte del mondo lo sai che per te io ci sarò fino alla fine, come un ricordo che non se ne va. Pensavo che fosse impossibile lasciarti un posto per l'eternità. Vorrei darti i miei occhi per farti vedere come ti vedo io, fino a quando tu non ti dimenticherai di noi. Tolgo i miei pensieri, cosa mi rimane? Lo sai che sono sempre stato il migliore a sbagliare. Ti avevo detto non restare, perché quelli che mi stanno vicino alla fine poi si fanno sempre male. Scappiamo adesso, già. È una bugia che ho detto per sentirmi peggio, ora non bastano più le parole. Siamo circondati di persone che si accontentano di chiunque per paura di restare sole. Tu non ci pensi mai. Sono lividi invisibili che durano per sempre. Non so dove andrai, ma in ogni parte del mondo lo sai che per te io ci sarò fino alla fine, come un ricordo che non se ne va. Pensavo che fosse impossibile lasciarti un posto per l'eternità. Vorrei darti i miei occhi per farti vedere come ti vedo io, fino a quando tu non ti dimenticherai di noi.